è un puro e semplicissimo spirito. Punto. Avete preso nota? Ma chi volle dare un'immagine agli uomini di questo fattore dell'universo dovette servirsi di un'immagine umana e ce lo fece vedere uomo. Fu un omone grande, grande, un nudo, dalle membra e dai muscoli ciclopici, con un magnifico peplo. Sapete cos'è un peplo? Sì. Peplo. Eh? Mantello. L'hanno visto il controdolore, hanno imparato cos'è il peplo. Cos'è il peplo? Il mantello del classico, del periodo classico. Che vuol dire? Mantello. Sì, ho capito, mantello classico di quando? Greco. Oh, bravo, bravo. E con sandali, con capelli e barba meravigliosi, con l'indice titanico della mano levata in aria terribile, di comando, luce o tenebre. Vita o morte. Però adesso partirei con un valzer zoppo. Prego, maestro. Questo spirito supremo ed infinito, perché grande quando voi dovete forzatamente fissare dei limiti a questa grandezza? La vostra non potrà mai arrivare alla sua, dunque pensate addirittura ad un uomo come voi e sarete al vostro posto. Perché in peplo e non in tight? Perché in coturno e non con un comune paio di Clarks? Perché un'immagine seria e relativamente grande è più facile di una relativamente piccola e allegra. Che mi stupisce per una cosa soltanto, che mentre io lo considero titubante e spaventato, egli mi guarda ridendo a crepapelle. La sua faccettina rotonda divinamente ride, come incendiata da una risata infinita ed eterna, e la sua pancina tremola, tremola in quella gioia. Perché dovrebbe questo spirito essere la perfezione della serietà e non quella dell'allegria? Secondo me, nella sua bocca divina si accentra l'universo in un'eterna motrice risata. Egli non ha creato, no, rassicuratevi, per un tragico o malinconico o nostalgico fine. No, ha creato perché ciò lo divertiva. Voi lavorate bene per alimentare voi e i vostri figli, non per fare con essi lunghi sbadigli di fame, no? Egli lavorò per tenere alimentata la gioia sua ed offrirne alle sue degne creature. E comprenderete bene che per divertirsi tutti in eterno ce ne vogliono di curiosi ed eterni spettacoli. Che egli abbia creato se ciò fosse stata cosa tediosa. Come poteva venirci da questa forza smisurata opera da perditempo senza spirito? Bando dunque a tutta la vostra serietà se volete comprendere qualche cosa di lui e della sua creazione. Il sole sarà per esempio il suo gioco preferito per lunghe e interminabili partite di pallone. Presidente della Sampdoria? No. E l'allenatore dell'Albino Leffe lo sa chi è? Ma che è l'Albino Leffe? Non lo sa nessuno. Ma allora che ce n'era a fare? Dico io. Ma la luna sarà il suo specchio comico, dalla luce tutta pitorzoluta, così che egli potrà vedervisi nelle più ridicole maniere. La nostra terra non è dunque che uno di questi suoi tanti giocattoli fatto precisamente così. Un campo diviso da una fittissima macchia di marrughe, spini, pruni, pungiglioni. Mi sono informata sulle marrughe, sono degli alberi tutti spinosi. Adesso che lo so, mi sento una persona migliore. Voi vi state meglio, vero, pure voi, con le marrughe. Ha posto l'uomo da un lato dicendogli attraversala. Là è la gioia, il largo, la vita degli eletti. Vivrai coi pochi coraggiosi che come te l'attraversarono. Riderai del dolore dei poltroni, dei paurosi, dei caduti, dei vili, dei vinti. Fin dal primo momento l'uomo è in massima parte rimasto fuori, a lamentarsi, a considerare lo spessore dell'oscuro ammasso del prunaio, a misurare la proporzione, la lunghezza, la quantità, la posizione degli spunzoni, a tentare di contarne il numero, cercarvi un introvabile pertugio, a far paragoni fra questo e quello, invece di buttarvisi dentro al risoluto. Alcuni vi sono in mezzo, incapaci di andare avanti o indietro, preferendo vivere con un pruno in un occhio piuttosto che affrontarne uno non si sa dove. Questi gridano disperatamente, e i loro lagni scoraggiano sempre più quelli che sono ancora fuori, mentre fanno sempre più sganasciare dalle risa e tenersi la pancia per non liquefarsi dalla gioia quei pochissimi che vivono ridendo, protetti dal loro signore che al centro di tutte le cose ride più di loro. Attraverserà coraggiosamente il dolore umano, godrà dello spettacolo divino del suo Dio. Egli si farà simile a lui, attraversando questo purgatorio di spine che egli gli ha imposto per godere primo lui e comunicare la stessa gioia ai suoi diletti. Egli, corpo umano ma perfettissimo, anche se un po' sadico, che non ha sulle sue membra di gioia una sola cicatrice di dolore. Uomini, non siete creati, no, per soffrire. Nulla fu fatto nell'ora della tristezza e per la tristezza. Tutto fu fatto per il gaudio eterno. Ale, oh, oh, ale, oh, oh. Ecco il vero peccato originale. Ecco il solo fonte battesimale. Vili, paurosi, poltroni, incerti, ritardatari, passate la macchia. Se credete che sia profondo ciò che comunemente si intende per serio, siete dei superficiali. La superiorità dell'uomo su tutti gli animali è che adesso solo fu dato il privilegio divino del riso. Essi non potranno mai comunicare con Dio. Un piccolo topo può farci udire il suo pianto, i suoi lamenti. Nessun animale ci ha ancora fatto udire una calda, sonora risata. A parte certi rarissimi casi. Che il riso è più profondo del pianto, ce lo dimostra il fatto che l'uomo, appena nato, quando è ancora incapace di tutto, è però abilissimo di lunghi, interminabili piagnistei. Prima che possa pagarsi il lusso di una bella risata, avrà dovuto seguire una buona maturazione. Bisogna abituarsi a ridere di tutto quello di cui abitualmente si piange, sviluppando la nostra profondità. L'uomo non può essere considerato seriamente che quando ride. La serietà ci viene dall'ammirazione, dall'invidia, dalla vanità. Quello che si dice dolore umano non è che il corpo caldo e intenso della gioia, ricoperto da una gelatina di fredde lacrime grigiastre pure schifose, diciamo. Scortecciate e troverete la felicità. Del dietro romanticismo sopra le sventure umane, le deformità del corpo, le malattie, le passioni, la miseria, la vecchiaia, i cataclismi, le carestie, furono ritenute sciagure tutte da bagnare di pianto. Se esse fossero state un tantino approfondite, noi le avremmo già come le fonti più vive della nostra allegrezza. Nulla fu creato con malinconia, ricordatelo bene, nulla è triste nel profondo. Tutto è gioioso. Un giorno la natura, questa vecchia pittrice d'accademia, dopo aver impartito al suo quadro mille spasmodiche sfumature di luce e di colori, con i suoi tramonti, con le sue aurore, mille toni di verde e di azzurro, ecco, avrebbe detto alla fine, aprendo la porta del suo studio a un uomo senza occhi, venite, guardate. E credete proprio che essa fosse così sciocchina da farlo se ciò non fosse stato spiritoso? Il cieco ci rappresenta la profondità, il privilegio di tutte le viste. Egli ha chiuso in sé la gioia di tutte le luci e di tutti i colori. Se voi lo guardate con aria lacrimosa, siete dei poveri cervellini da 3 centesimi, 3, e ridetegli pure in faccia a questo beniamino. Natura ve lo indica per questo. Siete ancora degli esseri compassionevoli? Egli non vi vedrà. Siete ancora dei vili paurosi? Ma egli è il solo che non potrà battersi con voi. Oh, perché gridiate dietro. E proprio lì, nella schiena, essa gli pose il tesoro della sua giocondità. Un poeta gobbo che continuasse per tutta la vita a cantare dolorosamente non potrebbe essere mai e poi mai un uomo profondo, ma il più superficiale di questa terra. Egli si sarebbe fermato a piagnucolare alla superficie della sua gobba come un fanciullo alla parola BOOM! Dopo averci rubato lo scrigno del suo tesoro dorsale per non essere stato capace di penetrarlo. Io però qui partirei con un valzer gobbo. Prego, maestro. Riuscirà a scoprire dentro il dolore, più egli sarà un uomo profondo. Non si può intimamente ridere se non dopo aver fatto un lavoro di scavo nel dolore umano. L'uomo che ride del riso stesso, o servendosi della gioia già scavata da altri, o è un poltrone o è un impotente. Scusi, perché quando dice impotente guarda me? È perché è l'uomo più vicino che ciò. Comunque. Vabbè, gli era do buona, eh? Comunque, o è un poltrone, o un impotente, o tutte e due le cose. E dai! Oh. E ride come se uno gli facesse il solletico sotto la gola, un riso meccanico, e come se uno credesse di sfamarsi guardando mangiare. Così furono fino ad ora le arti. Il teatro, la letteratura. Galleggiare sul dolore umano, servirsi della gioia già scavata da un altro, facendocela vedere già fuori senza insegnarci il modo di scoprirla. È il soliloquio di Amleto, la gelosia di Otello, la pazzia di Lear, le furie di Oreste, la fine di Margherita Gautier, i gemiti di Osvaldo, veduti ed ascoltati da un pubblico intelligente, devono suscitare le più clamorose risate. Voi siete un pubblico intelligente? Il silenzio. Chi tace, nega. Siete un pubblico intelligente? Siete con me. Eh? Oppure non siete pochi, con me. Quando sono pochi? Sono pochi, non parlano. No, mi interrompo. Ma che state sognando là dietro, laggiù non vi vedo? Quali sono i vostri sogni? Sono desideri, certo. Ma allora, siete un pubblico intelligente o no? Perché? Eh? A volte. Sì, a volte, non sempre, eh. Allora fissate bene in viso la morte ed essa vi fornirà tanto da ridere per tutta la vita. Tutte le apparenze funebri e dolorose della loro infanzia, alla capacità di servirsene per la loro gioia. Per esercitare questo spirito di esplorazione nel dolore umano, fin dai primi anni li sottoporremo a prove facili. Gli forniremo giocattoli educativi, tipo fantocci, gobbi, ciechi, calcinosi, sciancati, sfiditici, politicamente corretti, che meccanicamente piangano, gridino, si lamentino, vengano assaliti dai che sia, peste, colera, emorragie, emorroidi, scoria, follia, svengano, rantolino, muoiano. Poi la loro maestra sarà idropica. Maestro? Però può risorgere adesso. E come no, lo spettacolo deve andare avanti, no? E come fa Spallucce? The show must go on, no? Come no? Ma, maestro, scusate, c'è un problema. Vabbè, proprio per te lei, dai. Andiamo avanti. Ecco. Poi la loro maestra sarà idropica, ammalata di elefantiasi, oppure secca secca, lunga, col collo di giraffa. Le due saranno alternate ad insaputa della scolaresca, messe vicine, fatte piangere, tirarsi i capelli, darsi pizzicotti, dire ai, ui, in tutti i toni possibili e immaginabili, nelle maniere più desolanti. Un maestro piccolino piccolino, gobbo, rachitico, ed uno gigantesco, dalla faccia impubere, dalla voce esilissima e dal pianto come un filo di vetro. Un altro lo bastonerà o lo rimprovererà con voce cavernosa, mentre il gobbettino gli farà il pizzicorino dietro i ginocchi. I vari tipi, messi insieme, alternati, fatti piangere, rincorrere, dire ai! Oi! In tutti i toni, fatti morire. Gli insegnanti entreranno nelle classi sempre con svariata, sapientissima maniera. Una mattina il maestro sarà fasciato per mal di denti. Una mattina avrà gonfia una guancia come per una patatata. Come per una patatata. È un colpo di patata, no? La sassata è un colpo di sasso, la patatata è un colpo di patata. Come per una patatata ricevuta. O levandosi il cappello avrà sopra il cranio lucido un enorme bidorzolo in mezzo, roseo, lucente, grosso come una mela. Bubboni foruncoli geniali a tutto spiano e fisserà gli alunni e girerà per la classe serio, irato, oh, malinconico, nostalgico, romantico, stupidamente innamorato della maestra idropica o non corrisposto della giraffa. Sarà zoppo, guercio, marcio, sciancata. A seconda delle loro più o meno intense qualità naturali, saranno questi insegnanti retribuiti. La mesia del tuo cuso, la punti gonza, fa la cassola, e mesi un cambiale, gira, se mi sta giro, la benzina, la benzina. E il carretto è stupido, se fa un vestito, la capo, e tu dai scusi, fai che sgnavi, e se fa fermo, tu da coffe, e da coffe. E su un cadere, rimasto là, i loro alunni a ridere sinceramente di tutte le cose con... Ma, maestro, ma... questa canzone, che era? Canzone popolare della mia terra. Ovvero della Germania? Milano, Germania, minestrone, pelle, rotta, Per abituare i loro alunni a ridere sinceramente di tutte le cose considerate serie, dovranno certo possedere specialissime attitudini, no? Chi? Chi è che deve possedere? Chi è che deve possedere? Non seguono. Gli alunni. Gli alunni siete voi e non state attenti. Chi è che deve possedere? Si sono persi, vedi, lo ammettono. Non sono attenti. Dove siete rimasti? Ricominciamo. Io non ricordo mai. Alla patatata ricevuta ancora. D'amore. cucciolo della patatata, cioè. Se per abituare i loro alunni a ridere sinceramente di tutte le cose considerate serie, dovranno certo possedere specialissime attitudini. Chi è che ha gli alunni? I maestri. Comunque, vi lamentiamo una nota? Sì. Ecco, sapete, gliene metto un'altra. Yeah. Ecco, la signora Grobica, la ricordate? Darà tre enormi soffi e cadrà morta sulla sua poltrona. Quella lunga lunga secca col collo di giraffa, per capirci, morirà con lanci da cavalletta e cadrà contro il muro con le gambe all'insù dopo aver percorso in tutti i sensi la sua classe. Lunghe, sapienti lezioni di boccacci, di pianti più svariati, di tutti i possibili lamenti, si faranno nel cortile della scuola falsi funerali. Per i più piccoli, ed essi se ne contenderanno allegramente le membra. Oppure si alzerà in aria, terribile, o all'alzarsi del coperchio il suo naso si eleverà oltre 2 metri sulla sua faccia, per i più grandi ancora. I tardivi, quelli predisposti irrimediabilmente alla malinconia, incapaci di addentrarsi un solo millimetro nell'interno delle cose, quelli che ridono poco o male, gli imbecilli, insomma, delle nuove generazioni, verranno prima curati con amore, con lezioni private, con ogni possibile mezzo per sviluppare ogni loro possibilità. Verranno poi espulsi, messi in appositi ricoveri, dove cresceranno e vivranno i poveri e infelici seri. Non si è mai. Le morti delle persone più care, tutte le loro sciagure, vi forniranno i momenti della gioia più intensa. Io credo che anche un povero idiota dovrà almeno ricordarsi in quell'ora i soffi della maestra idropica, gli stiracchiamenti di quella lunga e secca, i gemiti, i gridi, le boccacce degli insegnanti. Il funerale dal quale saltarono fuori tanti topolini, quello nel quale il cadavere si gonfiò e salì per l'azzurro, o quello nel quale il suddetto idiota gustò un delizioso dito di pasta dolce o un occhio caramellato. Quanto mi piace a me quest'occhio caramellato. I baccanali dei nuovi funerali, i ritorni dai cimiteri, nuovi carnevali. Felicità e a quella dei nostri malati, abituati a vedersi intorno facce tetre che rispecchiano la morte, quando si vedranno intorno negli appositi palchetti di osservazioni dame gobbe, torte, guerci, piene di buboni, indecolte, sbirciarli coi loro occhialini. Elegantissimi giovani indignati, senza naso, gobbi, guerci, guardarli ridendo a crepapelle. Come non si sentiranno essi padroni della gioia che è in fondo alla loro stessa carne? Tutto è da sperare dalla buona educazione dei giovani. Combattiamo dunque un'educazione falsa e sbagliata. Il rispetto umano, la compostezza, la linea, la bellezza, la giovinezza, la ricchezza, la pulizia e pure la libertà. Tiè! Cioè, approfondiamo queste cose e troveremo in esse la loro ultima sostanza, il vero. Ridere quando se ne ha voglia, quando cioè il nostro ingegno, il nostro istinto più profondo ce ne suggeriscono il diritto, sviluppare questa che è la sola facoltà divina dell'essere umano. Ho veduto persone giovani, in special modo fanciulli, scoppiare a ridere istintivamente alla notizia di una sciagura che colpiva la loro famiglia o uno dei loro amici. Se vi fosse stato chi avesse rimproverato quella creatura precocemente geniale, sviandola dal giusto cammino sul quale istintivamente muoveva i primi suoi passi, per colui si innalzi pure la ghigliottina. Che il giocondo spettacolo dell'universo non è per i suoi occhi. Giusto, maestro? Giusto, fagotto. Io affermo che anche nelle attuali circostanze della nostra coscienza umana sviata da una falsa educazione, l'uomo più grave, più maturo, che dopo aver superata una delle più gravi difficoltà della vita, non abbia avuto la voglia di fare uno sgambetto e non l'abbia addirittura fatto, era indegno di vincere quella battaglia. D'ora in poi, pensate, tutta la nostra vita sarà una serie interminabile di sgambetti. Io qui però partirei con un valzer sgambettato. scusi, però prima non ha già fatto il valzer gobbo, il valzer, no? Zoppo. Cioè, mi scusi, c'è una differenza? Ma enorme, basta ascoltare. Stia a sentire. Lasciare d'un tratto il vostro fragile sogno, farvi prigionieri del dolore. Non vi attardate sull'ora breve della vostra e della sua giovinezza, rimarrete per forza a galla sul dolore umano. Approfondite questa giovinezza e ne avrete la vecchiaia, verità che altrimenti vi rimarrà sconosciuta quando la possederete e sarete preda della nostalgia. Sappiate che il deforme, il vecchio, non hanno come il bello e il giovane un limite, essi sono infiniti. Voi godrete di più a veder correre tre carogne, rassicuratevi, che tre puro sangue. Il puro sangue ha in sé la carogna che sarà. Cercatela, scopritela, non attardatevi sulle sue linee di fugace splendore. Pensate con gioia alla sua e alla vostra vecchiaia. In fondo ad essa è la profondità della vostra vita. Avrete la gioia di creare un nuovo essere. E mi raccomando, mangiate spinaci. Spinacessen! Pensate alla felicità di vedervi crescere attorno tanti piccoli gobbettini, orbiciattoli, nagarelli, zoppuncoli, esploratori divini di gioia. Invece di far mettere la parrucca alla vostra compagna, se non è calva del tutto, voi la farete radere fino alla lucidità e fatela imbottire la schiena se non è proprio gobba. Spinafres! Mi raccomando, sgasciata sia la mobilia della vostra casa, sedie, letti, tavolini che cadono, che si rovesciano, che si infrangono. Quando le vostre scarpe sono nuove, pensate e vedete le vecchie rotte. Per carità, non cercate di vederle in buono stato quando saranno sfasciate. Voi sarete perduti. Struggite mentalmente il mobilio della vostra casa. Rompete mentalmente le vostre scarpe, i vostri abiti. Prevedete fra i vostri figli un gobbo, almeno uno. O sappiate vedere uno storpio nel vostro figlio più sano. Una vecchia bagascia rauca e balbuziente in una giovinetta dalla voce d'usignuolo. Approfondite, approfondite sempre, fissate la vecchiaia. nostre braccia che vi attendono, fra le nostre bocche che ridono, fuori dalla macchia pungente del dolore umano. Venite. Sentimentalismo pietoso che deprimono ogni italiano. Vogliamo perciò sistematicamente distruggere il fantasma romantico ossessionante e doloroso delle cose dette gravi, estraendone e sviluppandone il ridicolo col sussidio delle scienze, delle arti, della scuola. 2. Combattere il dolore fisico e morale con la loro stessa parodia. Insegnare ai bambini la massima varietà di sberleffi, boccacce, geni, lagni, strilli per preservarli dagli abituali pianti. 3. Svalutare tutti i dolori possibili, penetrandoli, guardandoli da ogni lato, anatomizzandoli freddamente. 4. Invece di fermarsi nel buio del dolore, attraversarlo con slancio, per entrare nella luce della risata. 5. Crearsi, fin da giovani, il desiderio della vecchiaia per non essere prima turbati dal fantasma di essa, poi da quello di una giovinezza che non potemmo godere. Sapersi creare la sensazione di tutti i possibili mali fisici e morali nell'ora di maggior salute e di serenità della nostra vita. 6. Sostituire l'uso dei profumi con quello dei puzzi. Fate invadere un salone da ballo da un odore fresco di rose e voi lo cullerete in un vano passeggero sorriso. Fatelo invadere da quello più profondo della merda, profondità umana stupidamente misconosciuta, e voi lo farete agitare nell'ilarità, nella gioia. Vero? Ah, sono d'accordo. Voi prendete ai fiori le loro cime, i loro petali. Siete dei superficiali. Essi vi domandano quello che avete in fondo al vostro corpo di più intimo, di più maturo per la loro felicità. Sono più profondi di voi. Happy hours esilarantissime, caffè champagne, clown. Imporre agli ammalati delle foci comiche, truccarli come attori per suscitare fra loro una continua gaglianza. I visitatori non potranno entrare nei palchetti delle corsie se non dopo essere passati per un apposito istituto di laidezza e di schifo, nel quale si orneranno di enormi nasi foruncolosi, di finte bende, eccetera, eccetera. 9. Trasformare i funerali in cortei mascherati, predisposti e guidati da un umorista che sappia sfruttare tutto il grottesco del dolore. Discoteche, bar, skateboard, montagne russe, bagni turchi, palestre, zumba. Organizzare scampagnate diurne e balli mascherati notturni nei cimiteri. 10. Non ridere. Non ridere, per carità, nel vedere uno che ride, plagio inutile, ma saper ridere nel vedere uno che piange. Creative nelle stanze mortuarie, dettare epitaffi a base di bisticci, calembur e doppi sensi, sviluppare perciò quell'istinto utile e sano che ci fa ridere di un uomo che cade per terra e lasciarlo rialzare da sé, comunicandogli la nostra allegria. 11. Trarre tutto un nuovo comico fecondo da una mescolanza di terremoti, naufragi, incendi, tsunami, eccetera, eccetera. 12. Trasformare i manicomi in scuole di perfezionamento per le nuove generazioni. Negli ospedali, comunque oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Due volte l'anno andiamo di moda anche noi, no? Ce ne parlo. L'8 marzo andiamo di moda, il 25 novembre facciamo pena, e questo è quanto. E quindi abbiamo pensato di fare un bis diverso dal solito, se ce lo permettete. Sì. C'è solo un fiore in quella stanza, tu ti muovi con pazienza, la medicina amara ma già lo sai che non verrà se non sarebbe tu lo prendi. 7 già non scriveva queste cose. Come me se non ci fosse bisognerebbe spararti per inventarti però mi fa giù assolutamente per contare non sei Soltanto le zuppe di pollo.